Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Che oggi insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, con noi il presidente Carlo Garofolini. Benvenuto Carlo, buona giornata. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. L'argomento di oggi è un argomento che è già stato trattato in altre occasioni, magari anche da altre trasmissioni attente alle truffe, perché di questo parliamo. Ci sono dei tranelli ingegnosi per farti sottoscrivere degli abbonamenti. Capita a molti commercianti che si trovano recapitare delle bollette che hanno un aspetto ma che poi di fatto sono un'altra cosa. Sì, in questo caso parliamo di Avon, Event Fire e Dad Dutzel, che sono delle società che in questo momento hanno preso di mira un po' le nostre imprese, i nostri commercianti. È una vicenda che sinceramente avevamo anche cominciato a trattare un po' di tempo fa, ma che torna sempre puntualmente alla ribalta della cronaca, in cui le imprese o queste società ricevono dei bollettini con dei loghi anche assomiglianti alla Camera di Commercio, dove si invitano comunque a verificare un attimino se i dati riportati riferiti all'azienda sono corretti o meno e spedirle quindi anche con la francatura gratuita all'emittente, e dopo in realtà si arriva da pagare un bel bollettino da 1.000-1.500 euro, dove sostanzialmente le imprese non ne capiscono neanche da che parte e come abbia potuto capitare, con tutti i disagi e le conseguenze, poi perché queste società alla fine scopriamo che si rivolgono alla società di recupero crediti, cominciano a canirsi nei confronti di queste imprese, creando poi tutti questi disagi che insomma hanno spinto questi commercianti a rivolgersi all'Adico. Ecco, praticamente ti arrivano queste richieste di iscrizione, pare e sembrano insomma quelli della Camera di Commercio, piuttosto che tra le mille gabelle che un commerciante si trova a pagare, magari ti scappa di metterci anche quella. E poi da lì insomma si apre un impegno a corrispondere delle cifre per magari delle inserzioni pubblicitarie su qualche cosa di cui proprio non te ne potrebbe fregare di meno. Sì, delle cifre che possono arrivare a 1.500 euro, ma soprattutto una vicenda che veramente abbiamo deciso come Adico di fare in modo che venga posta veramente fine, perché se alle diffide legali mandate prima in cui intimevamo queste società voleva smetterla e invitavamo i nostri associati insomma a non pagare, in virtù di quella che è l'atteggiamento che questi continuano ad avere, abbiamo deciso veramente adesso di fornire tutta la modulistica gratuitamente ai nostri simpatizzanti, soci, per fare un esposto, una denuncia alla Procura della Repubblica, perché dobbiamo porre fine a questa cosa. Bisogna dire di non pagare, bisogna ritenersi vittime di inganni, bisogna che queste società che hanno sede a Bratislava o altri posti o paradisi fiscali smettano di operare nel nostro territorio. Bisogna veramente comunque che anche chi si trova coinvolto in queste vicende abbiano un messaggio chiaro e rassicurante, dove insomma l'invito è quello di non pagare, ma prima di non farlo anche di rivolgersi all'associazione quando hanno dei dubbi, perché sai, a volte si rischia di passare dalla ragione al torto sbagliando i modi con cui lo si fa valere, ma mettendoci a disposizione per fornire quell'assistenza, quell'informazione gratuita che questi devono avere, ricordando proprio che la firma del contratto è fatto sostanzialmente con inganno, e quindi con inganno noi diciamo che non deve essere assolutamente nulla dato. È veramente triste che nel 2014 capitino ancora queste cose. Di queste cose ne capitano ogni giorno sempre di più e assumono degli aspetti, dei risvolti che sono sempre più incredibili. Abbiamo persone che acquistano auto su internet e non gli arriva mai l'auto e gli addebitano tutto l'importo. Abbiamo vacanze fantasma, gite fantasma, abbiamo sorte di truffe più incredibili. Questa è l'ennesima truffa che però purtroppo non è rivolta ai consumatori, ma sono rivolte alle imprese. Imprese che in questo momento sono in difficoltà, non hanno 1.500 euro, 1.000 euro da pagare, non hanno tempo da stargli dietro a questi farabutti che insomma continuano a perseguitarle con queste intimidazioni che poi adottano nei loro confronti. Per cui messaggio chiaro, non pagate, mandate una diffida all'Adico, fate un esposto alla, alla Procura della Repubblica, se avete dei dubbi comunque leggeteli a noi, perché ecco, è una vicenda che bisogna trovare in modo di porsi. Ecco, quindi quando vedete che vi arriva per posta un bollettino che assomiglia a quello della Camera di Commercio, o qualcosa del genere, insomma controllate bene, leggete bene che cosa vi arriva, e se avete dei dubbi chiamate l'Associazione Difesa Consumatori, c'è il sito associazionedifesaconsumatori.it, trovate i numeri di telefono e quindi insomma una telefonata vi salva da una serie di problemi pesanti, perché poi questo è quello che succede, e certe volte uno, per non star lì a perdere tempo, perché magari ha 3 miliardi di altre cose da fare, e alla fine va a finire che paga anche, no? Sì, certo, anche perché questi comunque si avvalgono del fatto che tu hai firmato un contratto e per cui lo devi onorare. Certamente è un contratto che è stato stipulato con inganno e insomma in maniera vessatoria. Io dico sempre, il ruolo delle associazioni è quello anche di fare prevenzione, non sempre quello di curare. Noi adesso abbiamo deciso di usare anche noi, alzare i toni di questa vicenda, e abbiamo deciso appunto di coinvolgere la Procura della Repubblica, perché è giusto che vengano, tutti sappiano cosa sta accadendo in Italia. Certo. Però è anche giusto che queste vicende insomma non vengano più propinate, perché oggi non si può continuare a lavorare in queste condizioni, dobbiamo anche cercare di acquistare un po' di tranquillità e non solo pagare tasse, insomma. Ecco Carlo, ripeto allora i nomi delle tre ditte: sono Avron, Event Fair e Dead Dosher, giusto? Sì, giustissimo, queste sono le ditte e queste sono quelle che noi intendiamo appunto denunciare. Va bene, va bene. Abbiamo già ricordato associazionedifesaconsumatori.it il sito. Io, Carlo, ti ringrazio, ti do appuntamento fra un paio di giorni per un nuovo argomento. Sì, io ringrazio Carlo Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.